funziona? Senti? No? Vabbè. Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro del Maggio dei Libri, iniziativa promossa dall'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e adottata per il primo anno dal Comune di Velletri, nella specie dall'Assessorato alla Cultura. Prima di parlare del libro di oggi volevo leggervi una frase che è venuta in mente da una conversazione con un'amica, Sonia, riguardo proprio a questo libro, Figli rubati, di Federico Tulli. Bisognerebbe leggere, credo, soltanto i libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Ecco, questa è una frase di Kafka in una lettera a Pollock del 1904, e questa è proprio la sensazione che viene leggendo il libro di Federico. Un pugno al cranio per svegliarci. In realtà è anche un pugno al cuore, perché l'autore in questo libro non soltanto stimola con la sua intelligenza di giornalista e scrittore, quindi raccontando i fatti come sono andati in maniera scientifica e precisa, tutta documentale, ma si toglie anche l'umanità, quindi quella rabbia che ti viene conoscendo i fatti purtroppo che sono accaduti nel Cono Sur, nei paesi dell'America Latina, per un ventennio. Questa cosa a me ha colpito tantissimo, perché non si studia nei libri di storia. Magari i libri arrivano fino a Berlusconi, ma questa parte della storia è trattata in maniera superficiale, se non addirittura annullata dai testi. Quindi, oltre al senso di rabbia che ti viene veramente leggendo conoscendo questi fatti, non parlo di senso di colpa, ma anche la rabbia viene anche perché le istituzioni hanno fatto per tutto questo lungo tempo in maniera tale di non divulgare quello che è avvenuto di una violenza ferocissima, una violenza che è paragonabile anche a ciò che hanno fatto i nazisti, quindi simile al nazismo. Non c'è niente di diverso, perché c'è stato proprio l'annientamento delle persone, del popolo, non c'è stata soltanto l'uccisione, perché questi esseri umani venivano catturati, torturati, ammazzati e poi fatti sparire, non solo nei voli della morte, ma in tanti altri modi. E questo bisogna divulgarlo, bisogna farlo sapere. Magari poi nell'arco della presentazione cercheremo anche di capire perché nel mondo continuano a esserci queste cose. Non è stato solo nazismo, è proprio qualcosa probabilmente della cultura occidentale. Un'altra cosa che mi ha colpito infatti è stato il legame di queste dittature militari molto lontane da noi, però con il nostro paese e con altri paesi occidentali. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, la connivenza di istituzioni importanti, di stati, di organizzazioni internazionali che si trovano anche nel nostro Stato, e conniventi con questa barbarie, con questa violenza. E nel 2015 si è aperto il processo Condor, dopo quanti anni? Dopo 16 anni. Questo è un merito per l'Italia che ha affrontato questo problema. Infatti molti autori, cioè molte persone intervistate nel libro lo dicono, che comunque è un bene che questa violenza sia considerata una violenza contro l'umanità, a prescindere dalla nazionalità in cui è stato commesso il crimine. E quindi io chiederei subito a Federico Tulli, l'autore, c'è anche Fulvio Iannaco, un docente di filosofia che oggi ci accompagnerà in questa ricostruzione storica e in questa ricerca. Chiederei subito a Federico, e lo ringrazio tantissimo per aver scritto il libro e per essere qui insieme a Fulvio, di raccontarci che cos'è stato il Condor. Grazie Daria. Grazie a tutti per essere qui, grazie per questa introduzione, insomma, parole, ti ringrazio tutti. No, per me è davvero un'emozione. Del libro ne sto parlando parecchio da quando è uscito, però ogni presentazione per me è una situazione diversa. Figli rubati è un libro che si compone di due parti. La seconda parte del libro, la seconda metà, è tutta dedicata a questo processo Condor che si sta svolgendo a Roma da oltre un anno. E come ha accennato Ilaria, l'hai detto proprio un passaggio velocissimo, il problema dell'informazione, che anche poi anche un problema si ripercuote pesantemente sulla formazione anche degli studenti, ma insomma, a livello di informazione questo processo, io non so quante persone in questa bellissima location abbiano sentito parlare, ma appunto è un processo per crimini di lesa umanità subiti da 42 cittadini italiani durante gli anni 70 in Sud America. E quindi è un processo molto importante, perché stiamo parlando di sequestro, tortura, se la tortura fosse un reato anche in Italia, e omicidio e poi sparizione di questi nostri 42 connazionali che all'epoca erano giovani, che avevano tra i 20 e i 25 anni al massimo. E ecco, di questo processo che è tuttora in corso, io ne parlo nella seconda metà del libro, e questa è un merito che devo assolutamente riconoscere alla Sinodoro, perché il mio è un libro d'inchiesta in pratica è la parte relativa al Condor è un'inchiesta che ancora non si è conclusa, perché il processo molto probabilmente le udienze, l'audizione dei testimoni andrà avanti ancora per altri 2 o 3 mesi, e la prima sentenza non prima della fine dell'anno, anche molto probabilmente arriverà all'inizio del 2017. Però mi premeva appunto, e ho chiesto appunto alla Sinodoro di poterne parlare, perché dal punto di vista mediatico non c'era assolutamente copertura. Quindi io faccio spesso una battuta che non è una battuta: io ho finito di scrivere il libro a luglio del 2015, il processo era iniziato 5 mesi prima, in quei 5 mesi Quei 5 mesi erano usciti sui giornali a livello nazionale una decina di articoli, di cui 3 li avevo scritti io. Quindi ahimè, se può sembrare una battuta, ma non lo è. Nella prima parte del libro mi riferisco espressamente appunto al titolo, che è Figli rubati, e sta qui perché l'idea iniziale era quella proprio di raccontare, a partire dal ritrovamento del nipote di Estella Carlotto, che è la storica presidente delle nonne di Plaza de Mayo, a partire dal ritrovamento del nipote Ignacio dopo 37 anni di ricerche, e la casa editrice mi ha chiesto di raccontare gli sviluppi, cioè come funziona la ricerca dei figli rubati, in particolar modo centrando la questione sull'Italia, perché appunto in un'intervista a Estera, che è nel libro, l'ipotesi è che almeno 60 o 70 di questi giovani che oggi hanno tra i 35 e i 40 anni potrebbero vivere nel nostro paese senza conoscere la propria storia. Quindi appunto è un'inchiesta che va a ritroso, ma guarda anche al futuro, cioè alla speranza che facendo anche pubblicità alla rete che le nonne hanno creato in Italia, insieme con l'appoggio delle confederazioni sindacali, di diverse università, di associazioni, di amministrazioni locali, insomma, la possibilità di pubblicizzare questa ricerca, e che quindi qualcuno di questi giovani che ha il sospetto di non essere effettivamente il figlio delle persone con cui è cresciuto, il figlio naturale, appunto venga in dubbio e ha la possibilità di rivolgersi al consolato, all'ambasciata argentina qui a Roma e Milano, per sottoporsi a parere al DNA, e quindi confrontare il proprio profilo genetico con i 500 profili genetici che sono depositati a Buenos Aires in una apposita banca, dove appunto ci sono appunto, i profili genetici dei delle 500 famiglie che hanno denunciato la scomparsa di figli rubati in quei, di neonati o di bambini di al massimo un anno e mezzo in quegli anni lì. Parliamo quindi del periodo tra il 73, diciamo, e l'inizio degli anni 80. Ritorno al processo Condor. Perché si chiama processo Condor? Perché il sequestro, la tortura, l'omicidio e la sparizione di questi nostri 42 connazionali è avvenuto nell'ambito di un'operazione, che è appunto l'operazione Condor, così denominata, che era un piano, un accordo, diciamo, segreto inizialmente, poi è diventato ufficiale nel 1975, precisamente il 25 novembre del 75, quindi sono passati 40 anni da poco tempo, un accordo che appunto tra polizie di 7 stati del Cono Sur, quindi vediamo se me li ricordo, Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Cile, Perù e Bolivia. Si ipotizza la presenza anche di un ottavo stato che è l'Ecuador, però ancora non ci sono riscontri precisi, quindi lo teniamo per un attimo da parte. In estrema sintesi, questo accordo permetteva, per esempio, alla polizia uruguayana, generalmente alla polizia segreta uruguayana, di operare in Argentina per andare a riprendere questi giovani, che potevano essere studenti oppure sindacalisti oppure semplici lavoratori, che comunque avevano espresso pensieri di opposizione al regime, che all'epoca era quello di Bordaberry. E quindi la polizia uruguayana aveva il permesso, grazie a questo accordo, di entrare, quindi di riuscire a poter entrare in Argentina, e in piena sintonia con le forze di polizia locali eseguire delle operazioni di rastrellamento vere e proprie per appunto catturare quelli che loro chiamavano sovversivi. Generalmente succedeva che una volta presi venivano portati in questi centri di detenzione clandestina, che poi a partire dal 76 in Argentina diventeranno tristemente famosi, più noto è quella della caserma dell'ESMA, ideata, creata e poi diretta dal generale Massera, uno dei tre generali golpisti, e quindi venivano trasportati in questi centri di detenzione clandestini e lì sottoposti ovviamente a torture questi giovani. Dopodiché, al termine del processo di tortura, che serviva spesso per ottenere chiaramente i nomi degli appartenenti al gruppo, alla cellula, eversiva o sovversiva, che si voglia, venivano al termine tecnico, era trasferiti. Il trasferimento era sinonimo dell'omicidio, poteva avvenire attraverso i famosi voli della morte oppure più semplicemente plotone d'esecuzione e fosse comune. Il braccio armato dell'operazione Condor è stato il generale Pinochet, quindi già nel, appunto, il golpe del 11 settembre del 73 rispondeva alla logica dell'operazione Condor, perché, lo dico anche qui in estrema sintesi, braccio armato, ma la mente, e questa è la storia, io sono un giornalista, ma ovviamente la ricostruzione di questi passaggi ho dovuto consultare libri di storia. Diciamo, le radici ideologiche dell'operazione Condor affondavano nella CIA, quindi questo piano ideato fondamentalmente da Henry Kissinger, il cui scopo era quello di trasferire proprio in blocco, come dire, un modello economico di matrice ultraliberista, faceva riferimento alle teorie di Milton Friedman, in Sudafrica. Proprio prendere un modello economico e applicarlo in un'area geografica che in quel momento andava in tutt'altra direzione, e quindi per poterlo fare molto semplicemente, qui ecco il legame strettissimo col nazismo, anche perché ce n'erano circa 30.000 di nazisti in Sud America in quegli anni, Qual era il modo più semplice ed efficace per rendere efficace questo modello e farlo attecchire comunque in maniera molto, molto rapida? Eliminare fisicamente tutti quelli che rappresentavano una potenziale opposizione. E l'eliminazione appunto avveniva in questo modo. In Argentina la questione dei desaparecidos la dobbiamo fondamentalmente appunto alla giunta civico-militare argentina. Il termine fu coniato, se vogliamo, proprio da Videla. Lui disse in un'intervista alla BBC: non ci sono né vivi né morti, ci sono desaparecidos. E stiamo parlando del 76-77, la dittatura cilena aveva ormai 3 o 4 anni, in Cile non c'erano ancora desaparecidos, perché Pinochet fece le cose, diciamo così, alla luce del sole. Poi scoprì che era molto più efficace il sistema argentino, che era quello di far sparire le persone di sera o la mattina presto senza che nessuno se ne accorgesse. E infatti dopo 3 o 4 anni del via a quella che venne coniata un termine assolutamente agghiacciante come tante altre cose, cioè l'operazione dei televisori usati. Quindi le fosse comuni dove erano stati seppelliti i sovversivi eliminati vennero scoperchiate e i resti di questi prigionieri presi e gettati in mare e di lì appunto scomparsi. Quindi Pinochet, braccio armato, è lui, tra virgolette, dobbiamo appunto la firma del piano Condor nel 75, fu lui a coordinare tutta la stesura del piano e quindi i rapporti tra le 7 polizie. Pinochet agiva attraverso la DINA, la polizia segreta, il cui capo era Manuel Contreras. Contreras era uno degli imputati del processo Condor di Roma. Non lo è più perché è morto l'estate scorsa, senza che un giornale italiano abbia scritto una riga. Il braccio destro di Manuel Contreras, e qui sto per passare il microfono a Fulvio Iannato, il braccio destro di Manuel Contreras si chiama perché è ancora vivo, Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale. Lui era il ponte, il legame proprio fisico tra la versione nera sudamericana e la versione nera europea, non solo italiana. Per dire, quando morì il generale Franco nel 75, al suo funerale a Madrid, Stefano Delle Chiaie stava lì in piedi accanto a Pinochet, vicino a Contreras, e poi c'erano altri signori da cognomi piuttosto particolari, tipo Stroessner e così via, insomma, che era il dittatore paraguayano. Di Stroessner vi invito, ecco, cioè per farsi un'idea di che cosa accadeva in Paraguay dal 1954, se non erro. La premessa del libro è firmata da Martín Almada, un avvocato paraguayano sequestrato e torturato dagli uomini di Stroessner, e il motivo lui fu incarcerato è che si era laureato e si era addirittura anche specializzato in pedagogia. In Paraguay all'epoca era vietato studiare, fatte le scuole elementari, tutto quello che andava oltre, quindi un crescimento culturale di qualsiasi persona era considerato sovversivo. E però ecco, volevo ritornare appunto al nome di Stefano Delle Chiaie, che così incrocio varie volte nell'inchiesta del libro, e quindi tratteggio solo lievemente quella che poteva essere la situazione sociopolitica italiana all'epoca, quindi il clima politico che si respirava all'epoca, negli anni 70, il libro ha preso un'altra direzione, però mi piacerebbe anche sentire da Fulvio, cioè aiutare, ecco, fare una sorta di ponte tra tra quella storia e quello che c'è in tutti i rubati. Grazie. Grazie Federico. Un assist perfetto, perché il mio discorso può cominciare benissimo da quello che nel frattempo succedeva nel paese, il nostro paese, negli anni 70, come tutti quelli che li hanno vissuti come me, o che anche soltanto io cercherò di parlare anche per chi non li ha vissuti, da testimone, ma sappiamo che negli anni fra il 70 e l'80 in questo paese ci sono state ben 7 terribili e grandi stragi, quasi mai si è arrivati a sentenza sui responsabili di queste stragi, ma sempre o quasi sempre si sono trovate tracce, a volte si è giunti anche a condanna, di evidenti connubi fra questa destra, diciamo fascista, che ora Federico trovava nella storia della Latinoamerica, e i nostri servizi di sicurezza della nostra democratica Italia, nata giustamente dalla Resistenza. Questo tipo di discorso, per chi fosse venuto contento del clima che c'è in questo paese, c'è chi dice che si vive in un paese che sta andando benissimo, a sentire come soffrono quelli che stanno in Latino America, forse sarà meno tranquillizzante. In realtà queste questioni a cui sto accennando, questa storia che cercherò di fare il più brevemente possibile, ci evidenzia il fatto che non solo queste complicità, queste connivenze non sono mai state portate alla luce, ma ne abbiamo la certezza giudiziaria, perché i giudici sono arrivati a dimostrarle senza mai, quasi mai, riuscire però a giungere a sentenza. Ripeto, non tanto il fatto che esistano dei neofascisti nel paese, questo voglio dire è fisiologico, ma il fatto della complicità fra gli apparati di sicurezza dello Stato e questi stessi fascisti o gruppi o correnti, che poi sono gli stessi che troviamo appunto sul palco in Latino America a fianco di Videla o di Pinochet. Il mio intervento non sarà rasserenante, mi dispiace, io devo toccare dei tasti spiacevoli, però siccome di mestiere faccio anche il filosofo, vorrei essere ancora meno rasserenante ponendovi fin dall'inizio 2 o 3 domande, una è quella che faceva Ilaria, che poi vedremo se alla fine riusciamo a darvi risposta. La prima domanda potrebbe essere, l'ordine non è così importante, chi è il torturatore? Il torturatore, voi ve lo immaginate come uno psicopata, un disturbato di mente, un sadico che approfitta della situazione in cui si viene a trovare, della divisa che indossa, per sfogare le sue patologie. E ci sono certamente anche tanti così. È chiaro che quando c'è, fin dai lager nazisti, una situazione in cui è possibile abusare della sanità e del benessere fisico degli esseri umani, è chiaro che lo psicopatico ci fa buca, è chiaro che ci sarvole, è chiaro che ci va e gode di quello che fa. Ma se qualcuno di voi ha letto qualche storia fatta bene sul nazismo, sa che in realtà queste erano manovalanze, questi erano utili ai superuomini che guardavano la scena con distacco, disprezzo, lontananza, e non si emozionavano affatto. Quello che caratterizza il torturatore che non sia lo psicopatico, cioè quello che poi comanda lo psicopatico, è una certezza assoluta. Lui lo fa per il bene degli uomini. Tutto è lecito, anche abusare in una maniera più orribile, più impensabile, non saremo a raccontare dettagli, anche se a me una serie è capitato di vedere una registrazione del processo Condor, appunto, che diceva Federico, su Rai 3, e devo dire che quella notte non sono riuscito a dormire bene, perché c'era la descrizione giudiziaria di comportamenti esatti che non si potevano sopportare, soprattutto non di notte, e però accaduti. Il torturatore è convinto di farlo per il bene dei buoni, sempre. Pensa sempre che lui è il suo dovere farlo. E lo fa perché lui ha l'autorità morale, perché è superiore evidentemente in qualche misura agli altri, ha l'autorità morale per farlo, lui è un difensore dei buoni. È costretto da questo suo ruolo a esercitare questo potere. Io quando insegnavo, ora sono felicemente in pensione, quando si arrivava a questi punti chiedevo sempre ai ragazzi, io insegnavo in un liceo classico, va bene, ammettiamo, facciamo un esempino di scuola. C'era un aeroplano in volo che sappiamo ha una bomba a bordo e noi abbiamo nelle nostre mani un uomo, un complice degli attentatori, che potrebbe dirci dove esattamente in quell'aeroplano e come fare a disattivare quella bomba che sull'aeroplano sta per esplodere. Si può torturare quest'uomo? Questa è la seconda domanda per salvare tante vite umane. La terza domanda, e poi passo al schema di storia che volevo raccontarvi, è quella di Laria. Come mai non ci raccontano queste cose? Ma forse solo su Latino America? Quanti di voi sanno che in questo paese negli anni 70 e 80 si è torturato? La certezza di questa informazione, che molti hanno anche in via diretta, nel mio caso, non per averle subite, ma per aver sentito un racconto diretto, più di un racconto diretto, e non si può dire, io adesso lo posso dire qua, perché naturalmente vivo in un paese democratico e posso dire quello che mi pare, però io da insegnante di storia, io non l'ho mai potuta dire e non l'ho mai detta. Lo posso dire qui, perché questa è una sede libera, dove ognuno dice quello che vuole, però a scuola no, perché svolgevo un ruolo che era il ruolo di insegnante, quindi ero un dipendente della pubblica amministrazione, dovevo rispettare determinate norme. E la, a questa domanda sarà corollario una ultima riflessione: come mai nel nostro paese, e proprio nel nostro paese, non si è mai giunti a stabilire per legge che la tortura sia un reato? È reato in tutti gli altri paesi d'Europa. In Italia no. E l'Italia è il paese di Bolzaneto, è il paese di Cucchi, è il paese del femminicidio quotidiano. Fermiamoci qua con le domande. Di Giulio Regeni? Vabbè, quello è però lui è italiano. Sta indagando la magistratura italiana e se dovesse essere torturato, se dovesse individuare i responsabili. Però sono gli stessi, quello che ha subito Giulio, sono le stesse torture che si facevano in Argentina. Quando ho sentito la madre, questa è stata la polizia egiziana. No, ma perché abbiamo benissimo, diciamo così, non c'è problema. Assolutamente, sì, ho capito. Non c'è problema, fra l'altro quello che dici te va benissimo, solo che se per caso anche la fantasia sale agli esseri umani a dei limiti, tu ti facessi una ricerca ampia, per accorgeresti che poi gli orribili modi di tortura che si trovano applicati sono poi un po' sempre. Si va a colpire alla stessa maniera in tutte le latitudini del pianeta. Il problema è fare parecchio male e ridurre un uomo. In certi casi, come nel caso dell'Italia, il problema c'è un problema aggiuntivo. Bisognava fare parecchio male, ci arriviamo con la storia che vi racconto, senza lasciare segni. Perché il nostro ovviamente non è un paese con una dittatura militare, il nostro è un paese con un Parlamento democraticamente eletto, con dei controlli, con dei magistrati. E quindi il torturato doveva uscire dalle camere della questura senza segni riconosciuti. Ma torniamo al racconto che vi volevo fare. Brevissimamente, proprio brevissimamente, cerco. Però secondo me la cosa va inquadrata in un contesto d'anni un po' ampio. Quando finì la guerra, quando finì la lotta di liberazione dal nazifascismo. Voi sapete, immagino, che esisteva un governo di unità nazionale, diremmo oggi, un governo in cui erano ugualmente rappresentate tutte le forze politiche che avevano partecipato alla resistenza armata contro il nazifascismo, fino al febbraio del 1947, quando Alcide De Gasperi si recò negli Stati Uniti, a Washington, sopportò una prova umanamente difficile di essere trattato, nonostante che noi avessimo alla fine combattuto al fianco degli alleati, trattato da sconfitto, perché doveva negoziare quel famoso piano Marshall, che non venne concesso solo all'Italia, ma che venne poi concesso un po' a tutta l'Europa che era stata travagliata dalla guerra. Piano Marshall, che è stato quello che poi, come subito dopo vedremo, ha permesso al nostro paese quello che tutti voi sapete, immagino, il famoso boom economico, un periodo di una decina d'anni in cui il PIL di questo paese cresceva a doppia cifra, cioè una roba tipo Cina, tipo Vietnam, tipo... Perché? Perché c'erano stati questi investimenti americani, e per un altro motivo che sto per dire. La condizione che il Presidente degli Stati Uniti, che il Congresso degli Stati Uniti pose a De Gasperi, come, scusate se vi dico cose risapute, ma non sono tanto certo che lo siamo per tutti, fu che i comunisti venissero espulsi dal governo. Quello stesso anno De Gasperi è tornato in Italia, ruppe l'alleanza antifascista del Comitato di Liberazione Nazionale che aveva retto il governo fino a quel momento e preparò le famose elezioni del 48 che il 18 aprile, come sapete, videro presentarsi da una parte i democristiani con i loro alleati e dall'altra il Fronte Popolare col simbolo del voto di Garibaldi, che perse quelle elezioni e da lì si iniziò quel quarantennio di dominio democristiano che vedo ora in televisione. A volte i ragazzi di 18 anni non sanno neanche che è successo, pensano che in Italia abbiano governato i comunisti o cose del genere. Si vede, no, questa cosa. L'altra condizione perché quello sviluppo ci fosse, quando finalmente arrivarono i soldi degli americani, perché i comunisti non erano più al governo, era quello che aveva proposto l'ingegner Valletta. L'ingegner Valletta era allora l'amministratore delegato della Fiat, che era, ovviamente non sto a dirlo già allora, anche perché pesantemente implicata con tutto il ventennio fascista, la potenza economica vera, la vera padrona del paese, erano loro che decidevano tutto. Beh, il governo fece una commissione d'inchiesta parlamentare e chiese a tutti gli imprenditori nel tempo, tutte le classi pensanti del capitalismo, cosa possiamo fare, il paese era distrutto. Distrutto veramente, cosa possiamo fare per far ripartire il paese? E Valletta disse, beh, l'Italia non ha materie prime, naturalmente, adesso forse c'è il petrolio dell'Adriatico, non ha risorse di sorta, non pensavano al turismo, è un peccato. Quello che l'Italia ha è che ha una enorme riserva di forza lavoro a bassissimo costo disponibile a spostarsi. Quello che l'Italia può fare è concentrare tutto sulla produzione industriale, in particolare nel settore automobilistico, che fu il vero trainante di tutto nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova, Firenze che sono con nostalgia, e portare su, un tempo si diceva con la lettera del prete, che gli operai venivano dal sud raccomandati, milioni di esseri umani che poi venivano a trovare posto nel nord del paese, così creando una doppia situazione, cioè creando, riproducendo una situazione già precedente in cui il paese naturalmente era già spaccato fra un meridione della questione meridionale già tragica e un nord che si stava sviluppando con tassi appunto più che europei, cioè, come dicevo prima, a due cifre del 12, 13, addirittura si arrivò al 16% anno, potesse fare il suo sviluppo. Questo funzionò, questo è il motivo per cui le nostre ferrovie fanno schifo, questo è il motivo per cui un paese che ha migliaia e migliaia e migliaia di chilometri di coste non ha mai sviluppato una navigazione industriale, cioè non c'è mai stata fatta mai una navigazione di cabotaggio, come sarebbe logico, per spostare le merci dal nord al sud del paese. Tutto fu concentrato sull'industria automobilistica, quindi sulle autostrade, quindi sulla meccanizzazione, e questo funzionò. Cioè, la Letta non era un imbecille, naturalmente, sapeva cosa riusciva, e questo portò il paese a un grandissimo sviluppo e portò a ricaduta anche all'aumento del benessere. Chiaro, se lo faceva il bracciante in una terra arida che aveva tentato di occupare e l'aveva cacciato la polizia e si trova a fare l'operaio a Torino, al di là di tutto il resto, un reddito ce l'ha, una casa se la fa, una moglie se la può permettere, magari una Vespa, magari persino una 500. Questo però, come accade nelle vicende dell'economia capitalistica, beh, ha un ciclo, e questo ciclo cominciò a terminare all'inizio degli anni 60. All'inizio degli anni 60 si cominciò a vedere che questo benessere che anche la classe operaria, questa struttura, aveva prodotto, cominciava a produrre un fenomeno non desiderato, che questi operai, anziché semplicemente ringraziare e accendere scire la Madonna per il fatto che la loro vita dal cafone meridionale che era il babbo era un po' migliorata, cominciavano a chiedere qualcosa di più. Cominciarono a manifestare forme di autonomia, cominciarono a scioperare, cominciarono a presentare rivendicazioni di orario, rivendicazioni di salario, e cominciò nei primi anni 60, in coincidenza per esempio quando ci fu nel 60 il tentativo degli eurocristiani di portare al governo i fascisti attraverso il governo Tambroni. E beh, ci furono delle rivolte nelle piazze, ci furono delle sparatorie, ci furono dei morti, quel tentativo non riuscì. Poi partirono gli operai di Torino nel 62, occuparono la città, poi partì anche gli operai della Galileo di Firenze, ma partirono un po' in tutta Italia e cominciò a cambiare un po' il clima. In quegli anni, questo stesso benessere che vi stavo dicendo aveva prodotto un'altra conseguenza molto importante e positiva, che gli operai magari avevano cominciato a mandare i figlioli a studiare. Prima no, prima. Magari a studiare anche pretendendo di fare, chissà, forse persino l'università. Cominciava ad esserci il fenomeno che le università, prima, io mi ricordo di aver studiato ai tempi, qualcuno di voi sicuramente se lo ricorderà uguale, in cui solo l'elementare era uguale per tutti, perché poi appena in quinta l'elementare, passare l'esame di quinta elementare, l'anno dopo ti dividevano. Il tuo compagno di banco andava magari a fare il professionale, l'avviamento professionale si chiamava, e io andavo, sotto il figlio del professore, a fare invece la media. Poi c'era anche dopo tutta una serie di sbarramenti, per cui se tu facevi la media dovevi fare latino, se facevi latino potevi andare a certe facoltà universitarie, per esempio giurisprudenza, per esempio lettere, per esempio filosofia, ma non ad altro. Cioè uno che faceva il liceo classico poteva fare più, io facevo il liceo classico per questo, che sono vecchi, potevi fare tutte le facoltà. Uno che già faceva il liceo scientifico, a lettere non ci poteva andare, a giurisprudenza non ci poteva andare. Uno che poi aveva fatto l'istituto tecnico industriale, sì, a ingegneria ci poteva andare, ma non certamente per la facoltà umanistica. Comunque, anche con questi sbarramenti succedeva, e io me lo ricordo perché i miei compagni universitari, mi ricordo bene, cominciavano anche a essere figli di operari. Cominciò a cambiare proprio l'area dell'università. Prima era un giardino per cioè, chiaramente funzionava, si andava a lezione in 20, il professore si seguiva, però cominciarono ad esserci questi, e noi naturalmente a quell'età, a 50 anni, lo capite, non è che si fa tanta differenza, ci stava bene. Solo che appunto questa crescita di massa, che era anche una crescita culturale, era anche una crescita di pensiero, era una crescita di problematiche, pian pianino, non vi posso raccontare troppi passaggi, portò al famoso 68. Cioè portò ad una situazione in cui dall'università, prima che la classe operaia, ma subito dopo, l'anno dopo, l'unità tra la classe operaia e gli studenti si realizzò, partì un rifiuto generale e di massa. Io vi assicuro, chi non l'ha visto non lo sa, io mi accorgo a raccontarlo, quanta mai gente c'era in piazza a Firenze, tutti cavoli di sale. quanta mai gente si spostava da Firenze su Roma per le manifestazioni nazionali, cioè era una cosa indescrivibile, quante mai facoltà erano occupate, cioè una cosa proprio generazionale. Poi infatti dopo non fu che poi tutti quelli hanno fatto la rivoluzione, chiaro, poi ci siamo ritrovati, ognuno ha scelto la sua strada, però quell'anno lì c'era questo strano afflato collettivo di una sorta di mondo che doveva cambiare. E l'anno dopo, sull'onda di questa straordinaria esperienza, che poi era mondiale, perché era quello che stava succedendo in Francia, era quello che stava succedendo in Inghilterra, è un fenomeno che merita e ha meritato infatti un approfondimento ben diverso da quello che possiamo fare qua. Era successivo la rivoluzione culturale in Cina, poco prima era partita l'America con l'Università di Berkeley, era un fenomeno mondiale, quindi interessantissimo. Tuttavia, come qualcuno io apprezzo molto ha scritto, e anche su questo non posso dilungare, il 68 finì col 68. Finì col 68, ma non finirono col 68 di essere attivi quei giovani, o una buona parte di quei giovani che avevano fatto il 68. Ormai io e quelli come me, tanti di noi, non potevamo più tornare a casa. Ormai si era detto che si faceva la rivoluzione e si pensava che l'anno dopo si sarebbe fatta la rivoluzione. E allora, siccome non c'erano più quelle masse che dicevo prima, si vedeva che però cominciavano a esserci gli operai, che per cavoli loro si erano mossi parecchio nel frattempo, il 69 è l'anno della grande esplosione delle lotte operaie, cominciarono a voler continuare, ma siccome non c'era più quell'unità d'azione che più o meno nel 68 si ritrovava, cominciarono a nascere gruppetti, gruppi, frazioni, organizzazioni, partitini, di tutti i tipi, di tutte le sorte, sarebbe anche interessante distinguerli, ma adesso non abbiamo il tempo, che cominciavano a cercare di approfittare di questa contemporanea leva operaria che spontaneamente si era data, almeno in tutte le fabbriche del nord, ma non soltanto, perché anche a Taranto, perché anche a Isola Vizzuto si muovevano le cose, nel tentativo, sempre con queste idee in testa, di fare questa rivoluzione che naturalmente, avendo poi basi culturali quasi sempre marxiste, dall'incontro fra il mondo intellettuale e il mondo operario trovava il massimo della sua ambizione realizzata. Solo che questo incontro successe che il fatto di non avere più le masse cominciò a creare una serie di organizzazioni che, non essendo più realmente in rapporto con le masse, cominciarono a darsi delle strutture gerarchiche, delle strutture settarie, delle strutture a volte anche militari, e cominciarono a sviluppare un settarismo fra loro che non sarebbe stato di buon auspicio nel seguito. Però è qua che, facendo un po' un salto che qualcuno mi potrebbe rimproverare, possiamo riagganciarci alla data che ci ha dato poco fa Federico, 1973. Cos'era successo in Cile di straordinario? Che tutto il mondo guardava in maniera assolutamente allibita, che non si era mai dato da nessuna parte del pianeta, che un partito socialista era andato al potere con libere elezioni. Salvador Allende, in alleanza con il Partito Comunista di Cile e con altri gruppi e raggruppamenti, aveva ottenuto la maggioranza delle elezioni e governava. Era un esempio che non si era dato mai. Tutti e tutti i classici del marxismo ci spiegano che non è possibile che una classe dirigente ceda il proprio potere senza combattere, e che quindi è assolutamente inevitabile, tragicamente magari ma inevitabile, l'uso della forza per instaurare un governo operario. Non era andato così. Allende, con le libere elezioni, aveva conquistato il potere e lo esercitava. Peccato che c'erano di mezzo in questo, l'ho accennato Federico e lo farà ancora, credo, gli interessi di alcune multinazionali, quelle del rame, soprattutto in Cile, assolutamente il Cile aveva il monopolio del rame, e voi potete immaginare un'economia come quella di allora, ma anche adesso, dove le telecomunicazioni hanno una rilevanza assolutamente totale, avere il monopolio del rame cosa può voler dire? La compagnia americana che aveva il monopolio nel Cile non era tanto contenta. Conseguentemente non era tanto contento neanche la CIA, a cui già Federico faceva riferimento, ed ecco che allora, per farla breve, la storia è molto più complicata, si arriva appunto all'11 settembre del 73, quando in una maniera che vi potete rivedere persino su YouTube, assolutamente la seconda guerra mondiale, c'è un combattimento che sembra Stalingrado, con l'aereo da caccia che bombarda il palazzo presidenziale, con Allende che si mette le mani in testa e esce con il mitra in mano, con i suoi uomini di amici, si chiamavano il gruppo di amici di Salvatore Allende, che escono, sono ragazzi come c'eravamo di allora, anche loro armati, che si guardano intorno, in tanti carri armati dei golpisti che circondano il palazzo, lo fanno nel palazzo storico, lo panoneggiano, lo bombardano, e poi la morte di Salvatore Allende, che ancora si discute, credo, ma che io sono convinto fu una sua scelta personale, anche se qualcuno dice che no, fu ucciso da chi lo catturò. In Italia questo fece un enorme scalpore. Chi era vivo a quell'epoca dell'orario, cioè, lo sa, non solo naturalmente si era in piazza a protestare, non solo naturalmente si accoglievano le canzoni, le culture, ma si pose un dibattito politico sul quale appunto io adesso non ho certo il tempo di spendere troppe parole, ma che nella sua forma più secca si dice subito, lì Enrico Berlinguer teorizzò nel 73 per la prima volta l'idea del compromesso storico. Lì Enrico Berlinguer pensò, avete visto, non ci si può fare neanche con le libere elezioni. L'unico modo per cui ci si possa fare, per dirla in termini brevi, è allearsi con il nemico di classe, allearsi con il nostro antagonista. Se siamo tutti, allora ci si fa, perché lì c'era la sinistra e la destra. Noi in Italia dobbiamo invece mettere insieme la sinistra e almeno il centro, perché se no non riusciremo mai ad arrivare da nessuna parte. E quella politica fu e divenne la politica di quello che allora ancora si chiamava Partito Comunista Italiano. Dall'altra parte, questo forse lo sanno meno persone, nel movimento della sinistra, che già da tempo accusava i comunisti di aver tradito gli ideali della resistenza, perché appunto non perseguivano coerentemente quello che anche il compagno Secchia al tempo della guerra sperava sarebbe stato, scrissero un'altra frase tragica, terribile, che spiega molto di quello che è successo dopo nel paese. Il titolo, ricordo, io ce l'ho davanti visivamente, di un giornale di allora, che era "Mai più senza fucile". Per loro la vicenda cilena, la storia del Cile, che aveva visto sconfitta quella che prima veniva pensata come una speranza, cioè, a che gli dicevano a un giovane comunista che si iscriveva al partito? Lavora, studiamo, organizziamoci, rafforziamoci, vedrai che un giorno vinceremo le elezioni. Il Cile dimostrava che questo non era possibile, secondo Berlinguer. E allora, o la cosa di Berlinguer, bisogna allearsi con un nemico, o altrimenti, mai più senza fucile. Ed ecco che cominciarono in Italia, e qui forse mi fermo perché ce l'avrei da dire, ma se mi accorgo di aver parlato già troppo, ma ci sarebbe in seguito, ma semmai eventualmente dopo. Ecco che perché in Italia si creò questa vicenda in cui in un terreno in cui già molto presenti erano forze in campo, una parte di queste forze in campo scelsero la via della lotta armata, eventualmente seguito dopo. Grazie Fulvio. E io volevo chiedere a Federico, parlando, Fulvio parlava, diceva di un aeroplano, descriveva di un aeroplano, e mi è venuta in mente la testimonianza dell'autista che ha detto: quando ti trovi un aereo davanti e stai con un mitra, devi sparare davanti e non di lato. E mi ha colpito tanto questa, oltre a tutta la testimonianza, quindi se ti va. Grazie, sì. Era un fucile, non era nemmeno un mitra. Sì, Fulvio mi ha fatto ricordare, ecco, una cosa, io ovviamente di dire altro, ma direi questo: il capo del gruppo di amici del presidente di Allende era piemontese, era un ragazzo di 24 anni, si chiamava Juan José Montillo Murúa, ed è uno delle 42 vittime di cui per le quali si cerca di avere giustizia appunto al processo Condor di Roma. Nel libro io ho intervisto quella che è ancora la moglie, perché in Cile non c'è, essendo lui desaparecido e in Cile non c'è il divorzio, lei è ancora la moglie, non si può risposare finché non ritrova il corpo e non viene dichiarata la morte di questo di quanto sei. E ho intervistato lei e i due figli e mi hanno raccontato, ovviamente raccontata nel libro, la storia del padre. La persona a cui si riferisce Ilaria appunto si chiama Julio Soto ed era l'autista personale di Allende di turno la mattina del golpe, quindi dell'11 settembre. E lui racconta brevemente, ma anche questa è storia, insomma non è un'esclusiva diciamo di figli rubati, che cosa avvenne durante il tragitto, di che cosa parlò Allende durante il tragitto e come avvenne in pratica il golpe, che era assolutamente inaspettato. Diciamo, la paura di Berlinguer si può spiegare anche in questo modo. Pinochet era il capo delle forze armate cilene ed era stato nominato capo delle forze armate cilene a giugno da Allende. E il golpe è arrivato appunto l'11 settembre, è partito dal bombardamento di una nave in un porto di, non mi ricordo il nome del importante porto commerciale cileno. E la notizia arrivò per telefono appunto a Salvador Allende, facendo, come direbbero. E lì si rese conto che il problema, iniziò a rendersi conto che il problema non erano solo non era solo l'esercito. Lui, perché aveva nominato Pinochet, uno dei motivi per cui l'aveva fatto capo delle forze armate, era per cercare di tenerlo sotto controllo, perché comunque insomma era un personaggio sospetto. Ma il problema era anche la marina, a quel punto era anche la marina, perché si assaltavano le navi in un porto, evidentemente Pinochet era riuscito ad allearsi anche con quel capo della marina. Quando arrivarono alla Moneda e ancora i carri armati non erano entrati nella piazza, e Allende dette ordine di prepararsi, cioè l'idea era quella di resistere il più possibile affinché il popolo, che era dalla parte ovviamente di Allende, si rendesse conto di quello che stava accadendo per poter intervenire e difendere tutti insieme la moneta, che era più che un simbolo di resistenza appunto. Ma cosa succedeva? Una colonna militare che si muoveva dalla notte in ciotola? Sì, si era arrivato. Esatto, sì, perché lui disse ai lavoratori di entrare nel fabbrico, poi semmai lì si sarebbero organizzati per poter partire tutti insieme. Fatto sta che alla Moneda c'erano 36 persone, compreso Allende, armati di mitra, qualcuno, pochi, fucili e pistole. Soto mi racconta in intervista che noi eravamo stati addestrati per difendere Allende da un attentato. Non da un attacco, non da un'operazione di guerra che non era più solo di terra ma diventa anche di aria, quindi Pinochet era riuscito a mettere insieme l'esercito, la marina e l'aviazione. E quando appunto i filmati che abbiamo visti tutti iniziano ad entrare, ad arrivare sulla piazza da sopra anche gli aerei, dice lì ovviamente la questione oramai era, la battaglia oramai era persa. Allende dice ai suoi di arrendersi, convinto che questo avrebbe salvato la pelle almeno di questi ragazzi. Si chiude nello studio e si spara con mitra che gli aveva regalato Fidel Castro. E Soto aveva avuto ordine, cioè rimangono circa 5-6 persone dentro la moneta a difendere appunto il presidente. Nessuno ovviamente, quando Allende dice gli ordina di arrendersi, praticamente nessuno lo fa, fino a quando però lui non si uccide. Dopodiché escono fuori dalla moneta, si arrendono e di lì non arriverà più nessuno tra questi 25 ragazzi. Tra questi c'è appunto Montiglio. 6 o 7, compreso Curio Soto, avevano avuto appunto l'ordine di posizionarsi sul tetto dei ministeri che davano sulla piazza della Moneta, e appunto fu lì che lui scoprì che appunto era stato addestrato per difendere il presidente da un attacco di un gruppo di guerriglieri, 3, 4, 10 persone al massimo, invece si trovò a sparare con un fucile agli aeroplani che arrivavano nella piazza. E qui l'intervista comincia tutto, inizia appunto questa frase che a me lui Soto fu arrestato, poi fu liberato, fu esiliato, adesso vive tra la Svezia e la Germania, non è praticamente mai più voluto tornare in Cile, e lui dice: perché in Cile non ci potrei vivere, c'è ancora la Costituzione di Pinochet, nonostante la presidenza socialista. E lì appunto racconta proprio la cosa, insomma, è stato un momento abbastanza particolare anche per me. Lui lo disse quasi ridendo, però c'era tutto il dramma di una situazione in cui si sapeva che sarebbero usciti sconfitti. E appunto, quando se vuoi un consiglio, dice: se ti trovi a dover difendere la democrazia del tuo paese e tu hai un fucile in mano e di fronte c'è un aereo, non sparargli mai di lato, ma cerca di colpirlo di fronte, perché se no non lo prenderai mai. E quindi qui diciamo una parte della storia appunto del processo, il fatto anche di queste testimonianze, insomma, che devo dire non è stato semplice raccogliere e cercare di raccontarle nella maniera più delicata possibile, ecco, questo è un termine che viene utilizzare. Una parte del processo è questa, e un'altra cosa che ha colpito è l'umanità di queste abuelas de Plaza de Mayo, che con coraggio sono riuscite anche a nascondere nei primi tempi le cose, i documenti sotto i vestiti, perché erano donne, e quindi sono riuscite. Quindi non so, questa è, non l'ho detto prima e me ne scuso, e che l'altra la violenza grande è stata anche prendere i bambini di queste persone e affidarli molto spesso a famiglie, le stesse famiglie dei carnefici. Questa è stata una cosa bruttissima, violentissima. Come tu hai detto, poi appunto ci sono tanti che non sanno ancora se sono i figli naturali. Questo aspetto di queste donne che con forza continuano a lottare per cercare, se puoi dire qualcosa. Faccio una piccola premessa, perché da quello che ho raccontato potrebbe sembrare che la prima parte, cioè quella dedicata proprio alla ricerca dei figli rubati, e la seconda siano scollegate. In realtà all'interno del processo Condor ci sono anche, cioè tra le parti civili, quindi tra i familiari dei desaparecidos, ci sono anche 4 figli rubati e recuperati appunto negli anni, circa 30 anni, dalle abuelas. Dicevo prima, all'inizio ne cercavano 500, fino a oggi ne hanno ritrovati 119, quindi ne mancano ancora, secondo la loro stima, 321. L'ultimo è stato ritrovato a novembre scorso. Le abuelas, ecco, proprio pochi giorni fa, a fine, dunque non so se è 29 o 30 aprile, è stato celebrato un anniversario, che è quello della fondazione delle madri di Plaza de Mayo. Abuelas sarebbero le nonne. Le madri erano appunto le mamme di questi giovani 20-25 anni scomparsi in quegli anni lì, che dopo un po' di tempo scoprirono di essere anche delle nonne, nel senso che molti di loro, parlando tra di loro, venivano, ovviamente c'era uno scambio di informazioni che avveniva in tutta segretezza molto spesso, venivano a sapere anche che magari la figlia era incinta e non lo sapevano, e quindi era stata tenuta in vita e aveva partorito appunto in uno di questi lager, e quindi in tempo reale scoprivano di essere diventate nonne. Diciamo così, praticamente nasce l'idea di formare anche un gruppo di abuelas, quindi si separano le madri dalle nonne, però diciamo perseguivano una battaglia comune che era quella della ricerca dei piccoli punti desaparecidos, i figli rubati non erano più solo i 25 anni ma erano anche i figli dei figli. E all'inizio appunto perché solo donne? Perché comunque gli uomini erano, erano quelli che correvano il rischio più alto di essere sequestrati, di scomparire improvvisamente. C'è una storia che è quella di dunque Mariana Zaffaroni, lei è stata ritrovata, è stata rubata quando aveva un anno e mezzo e i suoi genitori sono scomparsi, sono stati sequestrati entrambi insieme, ma l'ordine era di sequestrare lui, il padre. Poi se ci fosse stata anche la madre avrebbe sequestrato anche lei, e purtroppo c'era anche la madre, quindi più o meno questa era diciamo la gerarchia delle... all'inizio queste madri e queste nonne dovettero fare di necessità virtù, cioè erano comunque donne semplici, nel senso ovviamente si trovavano a dover combattere contro un nemico invisibile, soprattutto il nemico era lo Stato che era, e non solo lo Stato, e che Stato, si chiama dittatura civico-militare perché non c'era solamente l'esercito, non erano solamente i militari il nemico, il nemico era il datore di lavoro dei figli, era l'azienda in cui lavoravano. Era la multinazionale che poteva chiamarsi Fiat, Ford, ITT, Siemens, Mercedes. Quindi anche questo c'è una logica con la esattamente. Ma il nemico era anche, specificamente nel caso dell'Argentina, era la Chiesa. E quindi che succedeva? Quando scomparivano le persone, queste madri e poi le nonne, e seguivano tutte, poi lo raccontano singolarmente, ma alla fine la trafila era la stessa, quando per 3-4 giorni di seguito non avevano più notizie dei figli, ovviamente la prima tappa era il commissariato nessuno se ne filava, la seconda tappa erano gli ospedali, vedete se per caso avevano avuto un incidente, la terza era in chiesa, dal parroco di zona, perché dopo un po' iniziavano a capire che tutte le notizie di questo tipo passavano attraverso appunto la chiesa. E anche lì ci sono delle storie nel libro in cui mi riferisco specificamente all'Argentina. In Cile già è diversa la situazione, in Cile la chiesa cattolica cilena ebbe un atteggiamento totalmente opposto rispetto a quello che generalmente ha avuto la chiesa argentina, cioè la chiesa argentina ha praticamente appoggiato la dittatura, mentre quella cilena si può dire che abbia invece probabilmente, si sia probabilmente opposta a Pinochet. E questo mi porta a dire che ci si può ribellare senza correre il rischio di essere ammazzati, insomma, ecco, basta avere il coraggio di farlo. E la Chiesa argentina non lo fece, scelse di sostenere, come è accaduto con Franco, come è accaduto con Mussolini, di sostenere la dittatura. E finite queste tre tappe, le madri e le nonne erano, dal momento che si parlava di una sparizione, non avevano notizie, non sapevano se erano vivi, se erano morti, appunto, presentarono la habeas corpus in tribunale, cioè la richiesta di ricerca, la denuncia di scomparse, quindi la richiesta di ricerca del congiunto. Ad oggi le stime dicono che 30.000 famiglie ancora sono alla ricerca dei loro familiari. Queste madri e queste nonne come facevano poi? Comunque non si persero affatto danno, assolutamente. Ed Estela racconta, Estela Carlotto racconta, io l'ho intervistata più volte, ho avuto questa fortuna, anche uno dei motivi per cui è nato il libro. Racconta come riuscivano a muoversi all'interno, cioè diciamo quali erano gli escamotage che utilizzavano per non farsi scoprire, quindi si radunavano in dei bar, facevano delle finte feste di compleanno per scambiarsi, cioè brindavano e contemporaneamente si passavano informazioni che altrimenti non avrebbero potuto scambiarsi, perché quella che da noi si chiama durata giudiziosa, esisteva ovviamente anche lì. Quindi più di due o tre persone contemporaneamente venivano immediatamente separate, comunque messe in condizione di non scambiarsi parole. Oppure dice, che avevano scoperto che assumendo un particolare tipo di atteggiamento riuscivano anche appunto a trasportare documenti da una parte all'altra della città, per esempio a Buenos Aires, o addirittura a far passare il confine tra, proprio per la questione legata al piano Condor, riuscivano a passare dall'Argentina al Brasile oppure dall'Argentina all'Uruguay. Dice perché hanno scoperto che i militari ci consideravano delle stupide vecchie, per cui succedeva che più donne, più appartenenti a questa organizzazione, è capitato di portare documenti importantissimi, informazioni su ragazzi che si trovavano in Brasile e non potevano comunicare ovviamente né con i compagni di guerriglia, chiamiamola così, che poi non erano guerriglieri, ma insomma, né con i congiunti, loro assumendo questo atteggiamento dismesso, parlando male, così zoppicando. Si deve parlare, ma è proprio lo stesso caso delle nostre staffette. Esatto. Compagni, alcune le abbiamo conosciute direttamente, facevano la stessa cosa, anche in Toscana, vicino a Roma. Esatto. Perché i fascisti rispetto a donne, che avete visto nei film di Petri della Genesi, insomma, le donne vengono disprezzate. Esatto. Purtroppo lo vedete adesso. Ecco, quello che prima dicevi, mentre mi facevi la domanda, il piano Condor, l'operazione Condor, la dittatura argentina, le dittature sudamericane, qui arriviamo anche alla terza parte del libro, che sarebbe la postfazione, che è firmata da Simona Maggiorelli, che è qui davanti a me, è giornalista di Letto. L'attacco frontale delle dittature, appunto dell'ideologia fascista, poi quindi delle dittature, all'identità femminile. Ovviamente il furto dei bambini è chiaro un annullamento dell'identità di quell'essere umano lì, ma è proprio chiaramente una violenza indicibile perpetrata nei confronti della donna. Posso dire una cosa? Certo. È un piano, diciamo, una pulizia tra virgolette etnica, no? Come si è fatto la Bosnia. Quindi sequestravano e torturavano i loro genitori ventenni e crescevano una nuova generazione affidata ai militari. Affidata a famiglie. Mio padre mi diceva a pensare che quel militare che carezza la testa del bambino ha torturato i suoi genitori. Infatti lei dice benissimo, c'è stato nel 2010 un processo in cui è stato anche chiamato a testimoniare l'attuale Papa. Ed era il processo contro il piano sistematico per l'appropriazione dei bambini, perché appunto era pianificato, era messo nero su bianco, e il progetto era quello di combattere i sovversivi, appunto colpendoli negli affetti, quindi distruggendo qualsiasi tipo di resistenza, a cominciare da quella psichica. Ma si fondava sull'idea, appunto, Simona Maggiorelli nella postfazione c'è questa sua inchiesta dove riesce a ricostruisce quali sono le radici ideologiche e culturali di questa cosa, che affondano nella Spagna franchista, e ci arrivo, semmai te lo facciamo raccontare a me, se può. E l'idea era proprio quella di separare, di separare questi neonati dall'ambiente culturale, che appunto era quello di matrice marxista o comunque di sinistra, o comunque semplicemente è un ambiente familiare che aveva un'idea di democrazia, quindi di tutela e salvaguardia dei diritti, che cozzava totalmente con invece col progetto che era per esempio quello della dittatura civico-militare di Videla e soci. E quindi venivano queste donne venivano fatte partorire. Il bambino, cioè il neonato, veniva questo, medico compiacente, suora compiacente, certificato di morte del neonato, poi falso, certificato di nascita falso, denominato, che veniva affidato a famiglie, questo è virgolettato, famiglie contigue al regime, di chiara fede cristiana e cultura occidentale. Per cultura occidentale non si intende cultura quella, quella mia, ma totale, completa adesione a, a un'idea economica e quindi dello sviluppo sociale legata espressamente a, a quello che era il neoliberismo, quindi la cultura occidentale era la cultura statunitense, diciamo così, dell'epoca. Parentesi, il capo della CIA dal 76 al 77 era Ronald Reagan, chiusa parentesi. quindi famiglie, contigue regime, cultura cristiana e occidentale, per essere ovviamente chiaramente con l'idea che c'è di che il bimbo sia una tavoletta di cera da plasmare, quindi rieducati secondo appunto queste, queste, queste idee. E a, questa, a questo punto la Chiesa argentina ovviamente a questo piano non si è opposta affatto, anzi ha contribuito, perché ovviamente i bambini venivano battezzati. C'era la suora appunto che assisteva all'ostetrica, al parto, e quindi sapeva benissimo qual era la provenienza e qual era la destinazione di questo essere umano. E no, mi spero sono uscito un po' fuori della domanda, era appunto sulle, sulle nonne. Ecco, vorrei dire, l'ho accennato brevemente, e adesso passo anche la, di nuovo le, il microfono a Fulvio, ma, perché il libro nasce con l'idea di raccontare come è avvenuto il ritrovamento del nipote di Estella Carlotto dopo 37 anni, ma questa storia, per chi lo vorrà leggere, alla fine lo trova a pagina 40, cioè quello che doveva essere la storia iniziale, poi prende un'altra piega, perché un'altra una settimana dopo il ritrovamento di Vito Carlotto, alias Ignacio Montoya, viene ritrovata, avviene il primo ritrovamento di figlia rubata in Europa, cioè di una donna in Europa. Lei ha una libertà perché è cittadina olandese, e appunto erano 37 anni che la cercavano, e anche lei ha un legame con l'Italia, perché la sua famiglia, che è la famiglia della Quadra, Alicia della Quadra, la nonna di Ana Libertad, è la prima presidente, è stata la prima presidente della guerra di Plaza de Mayo, e tra il 76 e il 77 la famiglia della Quadra ha avuto 7 desaparecidos, adesso sono 6 perché Ana è stata ritrovata, e i sopravvissuti di questa famiglia, dopo diciamo discrete peripezie, sono riusciti a, ad arrivare in Italia, e adesso vivono a Milano. Adesso, alcuni adesso vivono ancora a Milano, poi dopo la fine della dittatura gli altri sono riusciti a rientrare in Argentina. E il libro inizia con la storia del ritrovamento di Ana Libertad e come è avvenuto questo ritrovamento, che è una storia davvero particolare. A parlarne non è lei, però, perché lei non, la sua identità acquisita è ancora segreta, per tutelare la ricerca dei veri genitori da parte di sua sorella. E me la racconta Ilario Burbio, che è il cugino, appunto, che fa l'architetto e vive a Milano. E nella la storia si interseca anche con Paolo Bergoglio, ahimè per lui, perché i nonni di Ana Libertad, quando scomparve la figlia, cioè maggio del 77, dopo 2 mesi seppero che era nata Ana Libertad con un biglietto anonimo. Nonni, la famiglia della Quadra era molto credente, erano molto facoltosi, hanno fatto molte donazioni ai gesuiti della zona di La Plata, e Bergoglio era il capo dei gesuiti argentini all'epoca. Ci fu un amico gesuita che consigliò loro di andare a parlare con Bergoglio, il quale invitò, cioè fece durare l'incontro pochi minuti, e consigliò al nonno di Ana Libertad di andare a parlare con uno che poi sarebbe divenuto il vescovo della zona di La Plata, e va bene. Lo ritroviamo a Bergoglio, l'ho detto prima, in questo processo per il piano sistematico, contro il piano sistematico per l'appropriazione dei bambini, perché la prozia di Ana Libertad riuscì a ottenere che lui testimoniasse a questo processo. e all'epoca era il capo dei vescovi argentini e la testimonianza la dette per iscritto, perché loro i vescovi possono decidere se presentarsi di persona oppure mandare una memoria scritta. Lui decise di non presentarsi e mandò questa memoria in cui a domanda precisa rispondeva che eh no, io sono venuto a sapere della, sì, di questa pratica di rubare i bambini, questa pratica ovviamente malvagia, insomma, di rubare i bambini, solamente dopo la fine della dittatura, cioè solamente dopo la fine dell'83. E i giudici argentini hanno ritenuto che la testimonianza fosse autentica e quindi, anche se appunto c'era almeno questo precedente, cioè dell'incontro con nonno di Anna Libertad, che non possiamo pensare, non gli disse che era scomparsa la nipote da 2 mesi, e i giudici hanno ritenuto che lui e che la sua testimonianza fosse autentica. Ovviamente i familiari di Anna Libertad, Ilario Burbia come gli altri che ho intervistato, invece sono assolutamente convinti che lui abbia mentito, e quindi diciamo al momento sono una voce fuori dal coro rispetto a quello che si sente normalmente dire tutto nei confronti di questo Papa, che sia un rivoluzionario, eccetera, eccetera. Passo la parola a tutti. Allora, vorrei dire questo. Non so se la pensate come me, cioè qui noi stiamo vivendo un'esperienza finalmente molta tanto di esperienza internazionalista. Stiamo tenendo in parallelo due paesi in due aree del pianeta assolutamente lontane, naturalmente non poi così lontane, perché vogliamo parlare del libro di Federico che ho letto, che ci è piaciuto, che ci auguriamo che voi vogliate farlo, per diffondere la conoscenza di questa vicenda, e perché vogliamo arrivare, alla mia proposta iniziale, a tentare di rispondere ad alcune domande. Vi ricordate dove ero arrivato io? Fate conto di aver visto questo film, qui c'è il regista in sala, che tengono la storia su due piani paralleli, no? Ti raccontano da una parte la storia di qualcuno, poi da un'altra la storia di qualcun altro, poi io ricordo, ho letto dei libri fatti così. Lo dico il giapponese, non so come si chiama, storie separate che però alla fine dovrebbero trovare la propria unità. Ma ancora ci mettiamo pochissimo, perché io nel frattempo ho deciso di dire proprio l'essenziale, tutto, non vi spaventate. Le cose che devo dire sono queste. Uno, vi ricordate dove ero arrivato io da questo versante della storia? Cioè ero arrivato al 73, quindi a questa biforcazione delle scelte di coloro che in questo paese si dicevano, poi naturalmente reciprocamente non si riconoscevano come di sinistra, il Partito Comunista Italiano con Enrico Berlinguer, la sinistra extraparlamentare con tutta questa galassia allora numerosissima, vi assicuro, di gruppi e gruppetti, che traggono da questa esperienza due diverse conclusioni, diverse, opposte. Dopo di allora, taglio via tutto il racconto, i più anziani tra voi avranno molte memorie, i più giovani avranno modo di recuperare, vicende di tutti i generi, diciamo solo questo, che in quegli anni, negli anni dal, per darvi un'idea, dal 69 al 79, le organizzazioni armate attive in questo paese, quindi quelle che seguivano la seconda ipotesi, passarono dall'essere 2 nel 69, 269 nel 79, naturalmente erano gruppetti miserabili, però tutti in grado di creare scontro armato, in forme magari, però 269. In quegli anni, per esempio nell'80, gli attentati che furono fatti furono il numero di 659. Nell'80 morirono anche 125 persone per fatti di terrorismo, va bene che 80 furono quelle tragicissime della strage di Bologna. Comunque, insomma, nessuno vuole sostenere un paragone impossibile tra la vicenda che stiamo conseguendo sul versante del Congo e questa. Non è questo il punto, non è questo il punto. Anche l'Europa ha avuto le sue, e non è secondo a nessuno, terribili vicende, ci sono dei testimoni diretti che ci hanno contribuito a liberare da quella terribile storia, quali va una nostra riconoscenza eterna di una terribilità, se si può dire terribilità, che non per questo facciamo semmai ora delle analogie fra il Cile e i nazisti, fra il Cile perché ci sono, quindi non è che stiamo paragonando l'impatto di queste cose, stiamo cercando di arrivare, almeno io vi sto proponendo di cercare di arrivare a paragonare i principi. E quindi diciamo, tenendo conto di questa differenza evidente, diciamo per chiudere che quando si arrivò poi alla, come dire, conclusione di questa vicenda fu perché lo scontro armato in questo paese, mentre nel frattempo si creava un'unità d'azione appunto contro questo fronte armato da parte di quello che cominciavano a essere i primi modi di presentarsi di quello che si voleva essere il compromesso storico, cioè un'alleanza attraverso Moro fra il Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che fino ad allora si erano sempre combattuti, arriva appunto il sequestro Moro, naturalmente. E quello, insieme all'omicidio di un sindacalista di Genova che era il compagno Guido Rossa, furono i due elementi in cui si iniziò dal versante della maniera in cui l'Italia, il paese, accoglieva queste vicende, perché una buona parte del paese solidarizzava con i terroristi o quelli che facevano scelta della lotta armata, lì si creò una frattura con l'omicidio Moro e con l'omicidio Rossa, ma lì si creò anche da questo Stato che vedeva appunto discutere insieme e collaborare le forze che prima si erano fra loro combattute, quelle del Partito Comunista di allora e quelle degli altri partiti di centro, di destra di allora, un patto di unità d'azione che portò a molte scelte, ad alcune leggi, fra cui la più importante del tempo fu la legge reale, che ridusse notevolmente, pur sempre poi sottoposta al referendum che la approvò negli ambiti della Costituzione, però ridusse notevolmente lo spazio d'azione politica nel paese, si arrivò ad una scelta drammatica, ma risolutiva. Il generale Carlo Alberto Della Chiesa, subito dopo l'omicidio Moro, fu incaricato di dirigere lui la guerra antiterrorista, di aiutare lui il paese a liberarsi da questo che naturalmente era considerato un cancro del paese, e in questa vicenda lui, come dicono i libri di storia che arrivano a dire questo, utilizzò strumenti innovativi. In un arco di tempo piuttosto rapido, di tempo breve, una quantità di fermi e di arresti che dilagarono in tutto il paese, attraverso il panico che si sparse nelle carceri, perché si raccontava nelle carceri che avvenissero episodi di tortura nelle questure del paese, e attraverso quindi il conseguente parlare di tutti quelli che potevano parlare per salvarsi da questa ipotesi, le Brigate Rosse furono smantellate. In qualche caso con azioni militari, come quella di Genova, quando furono sorpresi in una regione di direzione e ammazzati tutti sul posto, in altri casi con arresti, in carcere, comunque furono smantellate e loro stesse poi successivamente avrebbero dichiarato la loro sconfitta, la loro rinuncia alla lotta armata. Chiudo qui ricordandovi però le domande che avevamo fatto prima. La prima, visto che ho detto questo adesso, come mai io non l'ho mai potuto raccontare a scuola questo? Come mai io sono un professore, ho lavorato 42 anni nella scuola d'Italia e devo dire tutti i giorni a posto, non credo che lo dica, ho lavorato per la signora Moratti, ho lavorato per la signora Gennini, ho lavorato per tutti quelli che me l'hanno chiesto, non ho mai avuto una nota di biasimo, ma questa storia non l'ho potuta raccontare. Come mai in un paese democratico come il nostro non si è fatta mai una legge contro la tortura? E negli altri sì? E poi alla fine la domanda delle domande. E se voi foste quelli che dovete decidere sulla faccionda della bomba sull'aeroplano, che decisione prendereste? Si può, siccome il torturatore pensa sempre che lo fa per i buoni, torturare qualcuno o comunque violare quelle che noi tutti sentiamo essere leggi, realtà umane profondissime, quelle per le quali nessuno fa male a nessuno, che se tocchi il corpo di un altro non deve essere per fargli male, ma semmai per fargli bene o per ricevere meglio ancora del bene. Ma se ci fosse questa situazione, allora voi, e se quell'aereo fosse il vostro amico, il vostro figlio, voi ammettereste la tortura di un uomo? Io vi lascio con questa domanda, se volete ci pensate sopra o mi scrivete, oppure ci vediamo un'altra volta e continuiamo a discutere. Ok, se qualcuno vuole fare delle domande. Certo. Voglio dire, questo tre domande sarebbe il punto in cui secondo me voi avete visto, ecco, un po' l'età lì, di due storie così lontane finiscono tutte qua, perché questa domanda si può limitare con vicino. Se qualcuno vuole fare delle domande o magari Simona vuole dirci qualcosa sulla postazione, se può. In realtà più che altro magari farei una domanda, proprio Fulvio prima diceva appunto dei torturatori che appunto hanno probabilmente una patologia anche molto grave, che provano un godimento a torturare, anche il sadismo. E volevo chiedere a Federico come sta a incontrare un torturatore che, come diceva Fulvio, è convinto di aver fatto quello che ha fatto per il bene di Dio e della patria, in sostanza. Che, ecco, che tu ci raccontassi questa esperienza. Ovviamente io non sono stato torturato, ma no, la domanda è serissima. La domanda è serissima, sì. Nel libro c'è uno degli ultimi capitoli, mi sembra il penultimo, si intitola Il passeggero 37. Il passeggero 37 si chiama, il posto appunto su questo aereo che faceva la spola tra Montevideo e Buenos Aires. Il posto in cui sedeva questo Jorge Néstor Troccoli, lui era all'epoca un fuciliere della Marina Uruguayana e un sottufficiale, il cui compito era quello di reperire informazioni. E pare che lo sapesse svolgere molto bene questo compito, cioè non è che pare, ne siamo abbastanza certi, perché questo signore, dunque la dittatura uruguayana cade nell'89, a metà degli anni 90 pubblica un'autobiografia che si intitola L'ira del Leviatano, e in cui praticamente fa un'apologia di se stesso e descrive in maniera piuttosto dettagliata, autoesaltandosi ogni due pagine, la sua appunto pratica principale, cioè quella che consisteva appunto nel riuscire a estorcere nel più breve tempo possibile, nella maniera più efficace possibile, informazioni utili al suo datore di lavoro, che era appunto l'esercito. Chi gli forniva queste informazioni erano appunto questi giovani che, nell'ambito del piano Condor, lui, cioè fuggiti dall'Uruguay perché inseguiti dalla dittatura, si rifugiavano in Argentina, in Cile e così via. Lui in particolare appunto svolgeva il suo lavoro tra l'Uruguay e l'Argentina, e queste informazioni le otteneva grazie alla tortura. Lui lo scrive tranquillamente e dice ovviamente questo era appunto il metodo più veloce ed efficace per ottenere quelle informazioni. Del resto noi eravamo dalla parte della ragione e loro erano dalla parte del torto. In Uruguay Troccoli è soprannominato appunto El Torturador. dopo, dopo la pubblicazione di questo libro, lui tra l'altro si era anche iscritto all'università, è un signore dragagnotto, collo taurino, insomma, come si chiama? Numbroso. Devo dire, lo avrebbe inquadrato immediatamente, perché appunto, che succede? Dopo la pubblicazione di questo libro, il libro inizia a circolare e francamente era troppo. Sì, in Uruguay c'era una sorta di pacificazione nazionale, per cui come in Argentina sono state varate delle leggi per cui era stabilita l'incolumità, i responsabili della dittatura, insomma, non sarebbero stati perseguiti, e lui quindi tranquillamente appunto si iscrisse all'università, non mi ricordo quale facoltà frequentava, ma insomma non è importante. Che succede? Che però cominciano a cercarlo con insistenza, si trova messaggi minatori sotto casa, scritte sui muri e così via. Quindi che cosa decide di fare? Siccome si ricordava di aver avuto un parente italiano, un bisnonno in particolare, prova ad ottenere tramite questo bisnonno, l'esistenza di questo bisnonno, la cittadinanza italiana. E ci riesce, perché questo bisnonno pare, ora la cittadinanza italiana si ottiene invece, si può ottenere solo tramite via materna fino alla nonna. Lui riuscì ad ottenerla tramite il bisnonno, perché questo bisnonno ha avuto il merito di riportare a Garibaldi, dopo che appunto aveva fatto un viaggio in Sud America, si era dimenticato una bandiera. Questo bisnonno attraversa l'oceano e riporta a Garibaldi questa bandiera che si era dimenticata nei suoi viaggi, appunto, tra l'altro in Uruguay. E quindi grazie a questa storia e alla compiacenza del consolato italiano, perché all'epoca non era molto, anzi era molto ancora legato a quella che era stata la dittatura, lui ottiene la cittadinanza e pare che appunto tra la seconda metà degli anni 90 e la fine degli anni 90 si trasferisce in Italia. El Torturador vive in Italia, tra le province di Benevento e Salerno, da oltre 15 anni e qui ha vissuto tranquillo, perché questo Troccoli ha, diciamo, un cognome molto frequente in quelle zone, lui ha tanti parenti, vive a 5 di metri dalla caserma dei carabinieri di Battipaglia e nessuno gli ha mai rotto le scatole, perché appunto tornato a quello che dicevamo prima, comunque per l'Italia non ha commesso alcun reato, fino a quando, appunto a febbraio, alla fine di dicembre 2014, il ministro della giustizia Orlando stabilisce che il processo Condor in Italia finalmente si può celebrare. Qui devo spiegare perché è un ministro a stabilirlo, perché stiamo parlando di crimini subiti sì da cittadini italiani ma all'estero, e soprattutto da parte, cioè per mano dei cittadini stranieri. Per questo tipo di fattispecie è il ministro che deve autorizzare l'istruzione di un processo, cioè le prime denunce sono arrivate nel 1999, il magistrato ha indagato dal 99 al 2014 e finalmente nel 2014 il ministro ha dato l'autorizzazione a istituire il processo, che è partito appunto il 12 febbraio 2015. Tra i 33 imputati c'è anche questo Troccoli, ma lui è imputato solamente, tra virgolette, per sequestro e omicidio di 22 persone, non è incriminato per tortura, anzi. Altri compari di questo signore, che nel frattempo sono passati in Italia in questi anni, proprio perché la richiesta di estradizione o comunque da parte delle autorità o argentine o uruguayane, nella richiesta di estradizione c'era anche il riferimento alla tortura, questi signori sono riusciti a evitare l'estradizione dal nostro paese appunto al Sud America. Un paio di mesi fa ho scritto un articolo su Left, appunto il titolo mi sembra sia Il paese dei torturatori, perché oltre a Troccoli c'è un argentino che si chiama Latto, poi c'è un sacerdote che vive a Parma, un cappellano militare, e appunto, Poi sì, questo è diciamo il versante latinoamericano. L'Italia ospita anche tanti personaggi accusati di genocidio dal tribunale, accusati e anche condannati in contumacia al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per genocidio in Ruanda. Alcuni di questi, molti, gran parte sono dei sacerdoti che tuttora esercitano in diverse parrocchie nel nostro paese in tutta tranquillità. Sono tranquilli esattamente come fino ad oggi è tranquillo Troccoli. Che cosa ha fatto questo signore? E qui c'è la domanda di Simona. È l'unico imputato non contumace. Davvero torturatore e rispettoso della legge e forte della sua mentalità e di tutto quello che è stato capace di fare e di combinare nel suo paese e in Argentina, lui il giorno di apertura del processo si è presentato in aula e si è seduto, ecco, lì c'è il parente di una delle vittime di Troccoli e lì c'era Troccoli e io stavo in mezzo. E vedete, ma lo sapevamo, perché comunque è un po' invecchiato, esistono solo delle foto risalenti all'inizio degli anni 2000, e si è invecchiato male, devo dire. Questo ghigno, però si presenta un personaggio, sembrava un personaggio da film, cappotto col padre alzato, l'avvocato al seguito, occhiali da sole che non ha levato mai, e ogni tanto parlava con quello che era vicino a lui, che era l'avvocato. E l'avvocato, che poi, ecco, vi dico una cosa che non si è nominata mai stasera, l'avvocato era il rappresentante dello studio legale Sinagra, qualcuno di voi l'ha sentito nominare, che è stato l'avvocato di Licio Gelli. Esattamente. E che cosa poi... ci siamo fatti dire che cos'è che diceva Troccoli a questo avvocato. Raccontava in pratica, ecco, qual è il punto, che c'erano i testimoni che parlavano, in quell'aula Troccoli era la persona che sapeva più di tutti l'argomento di cui si stava parlando, quindi suggeriva all'avvocato qual erano le contromosse, le controdeduzioni da fare, sì, perché appunto era quello che sapeva bene di cosa si stava parlando, però il punto è appunto la sfrontatezza, proprio l'idea di essere un personaggio al di sopra di qualunque legge e di qualunque stato, possiamo dire, per concludere. Così è fatto un torturatore. Okay. Qualcun altro vuole fare delle domande, ha delle curiosità? Poi ovviamente i libri sono qui, quindi la risposta anche la risposta alla domanda di Fulvio. Aspetta, sì. No, sono io, volevo chiedere a entrambi questa cosa qua. Quando l'11 settembre del 73 Allende va verso la Moneda, no? Io da un documentario ho ascoltato che lui fino all'ultimo pensava che Pinochet fosse... no? E allora lì mi è venuto in mente che allo stesso modo Stalin con Hitler, la stessa cosa, fino all'ultimo lui con Hitler dice no, non c'è verso che attaccherà l'Unione Sovietica. Quindi cioè, mi chiedevo un po' anche poi rispetto, perché si è parlato molto di nazisti e di fascisti, ma ecco, rispetto alla ricostruzione, e con questo vorrei anche capire poi, insomma, si è parlato dopo l'89, negli anni 90, insomma, anche la via del socialismo in Sud America. E che cosa ne è oggi, insomma, un po' anche fare un po', siccome appunto c'era Venezuela, c'era la Kirchner, c'era l'Argentina, insomma, c'è stato un tentativo negli ultimi 20 anni anche di un'idea, di una terza via anche in Sud America, cioè era viziato, che cosa è successo, visto insomma in qualche modo e il Brasile e il Venezuela e l'Argentina, insomma la situazione oggi, almeno il quadro che ne abbiamo è un po', ecco, volevo chiedergli questo. La domanda ti risponde Federico. No, senza il microfono, mi senti? No, io dicevo una cosa, si parla di nazioni cosiddette civili, cioè parlavamo della Germania, stiamo parlando della Germania per quanto faceva gli anni di Stalin, stiamo parlando della, no? I media su che cosa ci rispostano? L'ISIS che taglia le bombe, in questo momento tutti quanti siamo, no? Orribile questa azione, giusto o no? I media nostra invece su questo problema che anche abbiamo fatto una volta con il professor Pierluca, per quanto riguarda ed eravamo isolati. Quello che mi preoccupa oggi è che il tessuto democratico nel nostro paese ha tenuto, con le cose che diceva il professore prima, gli attentati, l'hanno fatto tutti i gruppi, gli americani hanno fatto il disfatto con la destra nel nostro paese. Oggi io sarei preoccupato, cioè il fatto che noi facciamo queste cose, a mio parere, è per rafforzare eventualmente il principio di democrazia in tutti noi e di tornare, non in piazza, professore, comunque però ad essere più attivi nel cortesia. No, io penso che sia stato chiamato in casa il mondo dell'informazione in maniera abbastanza diretta, e questo è uno, forse l'ho spiegato anche un po' all'inizio, uno dei motivi per cui ho scritto il libro, cioè e per cui il processo Condor è entrato in questo libro. È chiaro che quasi una lotta contro i mulini a vento, cioè io il libro lo porto in giro, la gente lo legge, cioè, però dall'altra parte ci si trova a combattere contro un sistema dell'informazione che certe questioni non ne parla affatto. Io ho chiesto a un collega argentino, anche collega di casa editrice, che è Marcelo Figueras, che cosa ne pensasse lui, cioè perché secondo lui, e l'ho chiesto anche a Gennaro Carotenuto, perché secondo loro appunto i giornali non coprono questo tipo di notizie, e loro tutte e due mi hanno detto, senza conoscersi, che c'è di mezzo una vecchia storia che ci riporta appunto agli anni 70, quando per esempio il Corriere della Sera totalmente dentro la P2 parlò per la prima volta del dramma argentino alla fine del 1982. Cioè esattamente tre o quattro mesi dopo che uscirono fuori le liste della P2, dove figurava Rusconi, insomma, dove c'erano praticamente tutta la direzione del Corriere della Sera, era completamente. È come se oggi, e lo possiamo vedere anche per quello che sta succedendo in Argentina, dove il nuovo presidente sta facendo tabula rasa delle conquiste civili che i 15 anni di democrazia di Kirchner hanno garantito. Oggi si è ricreato a livello di grandi gruppi editoriali quella sorta di alleanza che c'era all'epoca. All'epoca c'era il Corriere della Sera, che ovviamente aveva anche degli interessi in Sud America tramite la P2, era decisamente forte, con questi grandi gruppi editoriali come il Clarín, la Nación e così via. E quindi all'epoca c'era solo il Corriere, sì, uscivano anche degli articoli ovviamente del Manifesto, però finché non lo raccontava il Corriere della Sera il fatto era come se non esistesse, soprattutto le questioni di politica estera. Repubblica nasce nel 76, quindi ovviamente non aveva ancora la forza che poi ha avuto negli anni successivi. Però oggi, ecco, sembra si stia ricreando, però all'interno, e questa è la cosa abbastanza surreale, all'interno di un sistema democratico che c'è l'Argentina, che c'è, quindi c'è il Sud America, quasi tutti i paesi del Sud America, che c'è anche in Italia, però lo stesso tipo di alleanza, che in qualche modo sottrae, non è che raccontano bugie, proprio non raccontano determinate cose. E ieri raccontavo a un ieri ho presentato il libro a Latina parlando con una persona del pubblico, insomma, cita fuori questa cosa, il processo quando si svolge all'Aula Bunker di Rebibbia, aula importante, processi storici, ma si trova a circa 40 km, sì, 40, scusate, 40 minuti di metropolitana, altri 20 di autobus dal centro. I giornalisti fanno fatica a spostarsi, insomma, per tutti questi chilometri. Succede però che accanto alla bunker, quella storica, ci sia un'altra ala un po' più piccola dove in questo momento si sta svolgendo il processo a Carminati, quindi mafia capitale. E caso strano, invece decine di giornalisti. Allora, che cosa succede un giorno? Che a un certo punto sospendono per circa un'ora l'udienza di Carminati, e quindi i giornalisti non sapevano cosa fare, incuriositi entrano nell'aula accanto. Tra questi c'è Federica Angeli di Repubblica, che è un bravissima giornalista di Nera, che vive sotto scorta, proprio perché è una dei colleghi che hanno portato in luce la storia di Mafia Capitale, e che entra in un mondo per lei totalmente sconosciuto, in una storia totalmente sconosciuta, ma la storia sconosciuta era che a Roma si stesse svolgendo il processo Condor. E lei, la giornalista di razza qual è, ovviamente si è fermata ad ascoltare, e il giorno dopo ha scritto, finalmente, sto parlando di 2 mesi fa, ha scritto un articolo decisamente importante, che è il primo articolo uscito su Repubblica da febbraio 2015 appunto a marzo 2016. Ma è stata un'iniziativa individuale del singolo giornalista. Quindi la questione non riguarda solo il Corriere della Sera, che invece proprio non ne ha mai parlato del del processo, ma anche il suo principale concorrente, se così vogliamo chiamarlo, che è Repubblica. Dunque, prima di tutto ringrazio il compagno Aureli per le sue parole, con le quali concordo pienamente, e voglio soltanto dire è inutile continuare a ringraziare tutta la vita, ma dire che sono esattamente, a mio modo di vedere, ma credo al modo di vedere di tutti quelli che siamo qua, gli esempi come il suo e i valori per cui ha combattuto lui e i suoi compagni, se ho ben capito, al quadrato. Mi raccontava ora la compagna, io la storia di Quadraro la so, l'ho letta. Quelli che. Sì. Sono esattamente questi gli unici valori. Io sono membro, naturalmente non per età, dell'AMPI, esattamente per questo motivo, che ci permettono di avere, non dico un orgoglio di essere italiani, però almeno di rivendicare un onore che gli uomini e le donne d'Italia possono, se vogliono, nei momenti di necessità, esprimere in un contesto come questo di corruzioni dilaganti, di volgarità, di soltanto questi valori possono essere per noi, per quanto lontani nel tempo, l'unica stella polare di riferimento anche nella vita di tutti i giorni. E quindi vorrei che i giovani soprattutto. Ci si può iscrivere all'AMPI anche a 16 anni, almeno per portare avanti almeno intanto il ricordo e possibilmente l'impegno che abbiamo nella difesa di questi valori che vengono distrattati ogni giorno, ogni minuto, in ogni trasmissione televisiva. La ricerca della libertà e dell'eguaglianza è beffeggiata, quella stessa ricerca di libertà e di uguaglianza per cui i compagni di Aurelio sono morti al suo fianco, la stanno facendo a pezzi. Per quanto riguarda la domanda, io non sono assolutamente in grado, io mentre si veniva ho fatto praticamente in macchina a Federico la stessa domanda sugli anni 90, non ne so, gli anni 90 colpevolmente, sì, naturalmente ho sempre letto i giornali, non ho mai approfondito e non saprei analizzare quella situazione. Per quanto riguarda la prima parte della tua domanda, è intrigante, è una domanda che permetterebbe anche un prosieguo di discussione su contenuti meno superficiali. Diciamo, fermiamoci ora, anche da allora, a questo punto, ad alcune cose. Facciamo qualche differenza. Stalin, Hitler, Allende e Pinochet, poi ci arriviamo, però prima di tutto facciamo le differenze. Hitler aveva scritto in un libro che aveva venduto centinaia di migliaia, ma io non lo so, detto a caso, forse milioni di copie, che lui, la Russia, la voleva distruggere, che lui, gli slavi, li voleva rendere tutti schiavi. Per gli slavi si sarebbe destinato un ruolo di schiavi per i signori tedeschi e ai giovani bambini slavi, alle nuove generazioni che sarebbero nate, si sarebbero insegnate 3500 parole di tedesco, quelle necessarie per obbedire agli ordini. Appena poi la guerra iniziò, subito fu messa in atto questa politica. L'armata nazista avanzava e dietro venivano i reparti speciali che non combattevano contro l'armata rossa, ma rastrellavano i villaggi, le campagne e tutti i luoghi che l'armata tedesca superava nella ricerca di conquista, per distruggere, ammazzare tutto quello che avessero, nei modi più orrendi che non farebbe nulla da invidiare alle storie argentine, anzi, tutti quelli che erano o ebrei o comunisti o appartenenti in qualche modo ad una associazione sindacale, non so dire partigiani, non so dire combattenti, ma rastrellavano uomini, donne e bambini. E se l'aveva detto, Hitler era un uomo a suo modo onesto, l'aveva detto le sue intenzioni, non li aveva tenuti nascosti. Stalin lo sapeva. Poi si potrebbe parlare di Stalin, questo sarebbe un altro discorso. Per quanto riguarda invece Allende e Pinochet, siamo di fronte al caso in cui, beh, intanto, anche se il discorso si sarebbe complesso, come ho detto prima, Allende era stato eletto in elezioni tipo le nostre, no? Cioè pluripartitiche, anche Stalin viene eletto, acclamato, insomma, un po' diverso. Pinochet non aveva mai, mi sbaglio, mai dichiarato nulla di quanto, anzi, se Allende lo nominò proprio perché se ne fidava di più di quell'altro, come si chiamava? Otteneva forse, ecco, deciderà lui. Io concludo solo dicendo che poi a livello psicologico, perché naturalmente la stipula del patto Molotov-Ribbentrop è una vergogna che è difficile spiegarsi in quel momento. I più favorevoli, i più, diciamo, meno duri, meno severi nei confronti dell'Unione Sovietica hanno sempre detto che sì, lo sapevano ma non erano pronti, che se non fossero passati lì la conquista nazista della Russia sarebbe stata più facile, che in qualche modo loro così poterono per alcun tempo prepararsi, armarsi, prepararsi a quella epopea che fu poi epica, per cui in effetti di fronte all'avanzata nazista i russi riuscirono, ritirandosi con la tattica che era stata già usata contro Napoleone, a spostare oltre gli Urali addirittura le fabbriche di carri armati per poi partire al contrattacco. E sappiamo tutti, credo, non so, forse i giovanissimi, che se non ci fosse stato quel contrattacco, se a Stalingrado i russi non avessero fermato l'armata nazista, se fino a quel momento un'armata che non aveva mai perso, da quel momento non vinse più, perché i russi riuscirono a fermarli, stai tranquillo che sul mio liceo, invece che esserci la stella della Repubblica con la cosa dentata, ci sarebbe stata il fascio o la croce nazista. Cioè, la guerra è stata vinta da quel momento in poi, perché c'è stata quella controffensiva e naturalmente se vuoi adesso parliamo 30 ore di quanto è stato cattivo Stalin, però questo è un fatto. Questo è un fatto. Pinochet, ecco, vogliamo dire che se poi ci può essere il fatto che tu hai davanti a te una persona di cui hai paura, perché è un libro delle paure, anche se il fatto è su scala diversa, e forse non ti rendi conto che non hai la forza di dire vabbè adesso mi libero di te in qualche modo, magari anche non sanguinario, e forse quella è una scelta che rischi di fare e poi certo di pagare. Non so se c'è qualche altro intervento. No. Ok. Vorrei ritornare un attimo, ecco, all'attualità, cioè perché ho lasciato Bergoglio messo male, cioè fino a un certo punto della sua storia, e al momento ci si potrebbe fare una domanda che è molto importante e riguarda soprattutto appunto la ricerca dei desaparecidos, ma dei figli rubati che ancora non sono stati ritrovati. E la domanda è: Bergoglio Papa è la stessa persona che era il capo della Chiesa Cattolica Argentina? Perché appunto, o prima ancora il vescovo di Buenos Aires, per tutto il tempo che lui è stato capo dei gesuiti argentini, cioè durante i 7 anni della dittatura, diciamo, prove di coinvolgimento diretto, di complicità con me, non ce ne sono. È una storia molto particolare, riguarda la scomparsa e poi il ritrovamento di due sacerdoti gesuiti che Bergoglio aveva espulso dall'ordine in quanto si erano rifiutati di abbandonare le favelas in cui lavoravano a stretto contatto con le popolazioni più povere. E c'è anche la storia di alcuni di salvataggi che lui fece, insomma non si sa molto bene che tipo di qual era l'atteggiamento di Bergoglio nei confronti della dittatura. Quello che è certo è che dopo l'83 lui diciamo, cade un po' in disgrazia e viene a lavorare in Europa, mi sembra si trasferisce in Germania, e sono gli anni in cui Alfonsin è presidente. Alfonsin è il primo presidente dopo la caduta della dittatura ed è quello che varò le leggi che permettevano di perseguire appunto i militari responsabili di crimini contro l'umanità. Dopo Alfonsin ci fu il presidente Menem, e Menem è quello che invece ha restituito l'immunità ai militari che erano stati condannati. E proprio in quel periodo Bergoglio rientra in Argentina praticamente e comincia la sua ascesa nell'ambito della gerarchia ecclesiastica, fino a che diventò appunto vescovo di Buenos Aires e poi capo della Chiesa argentina, e lo è stato fino al 2013 quando è diventato pontefice. E quindi per, diciamo che per circa 15 anni più o meno Bergoglio non ha mai, a parte quando è stato costretto per la testimonianza, ha fatto riferimento a quello che è accaduto in quei 7 anni, non ha mai speso una parola per le vittime, circa 30.000, per le persone arrestate e torturate, altri 15.000 più o meno argentini, per i figli rubati, appunto. Nel momento in cui ha dovuto testimoniare ha detto: ma io non sapevo nulla, voci non me ne sono aggiunte, l'ho saputo solo dopo la fine della dittatura. E questo appunto è il Bergoglio pre-Papa. Il Bergoglio Papa è la persona che dopo il ritrovamento di Guido da parte di Estela, che ha fatto, ha invitato tutta la famiglia Carlotto in Vaticano, ed è stata la prima volta praticamente dopo 20 anni che Estela e Jorge Mario si sono parlati. Ovviamente lei era presidente della Pueras e lui era stato appunto il capo della Chiesa argentina. E proprio perché lui non si era mai voluto occupare di queste cose, Estela lo ha sempre ignorato, per non dire altro, non aveva ancora opinione di lui. Però ecco, il Bergoglio Papa invita la famiglia Carlotto a un'udienza privata e la prima domanda che si era di fare è: Santità, non so se l'ha chiamato in questo modo, apra gli archivi della Chiesa argentina perché noi dobbiamo ritrovare i nostri nipoti, perché le nonne che oggi hanno 85, 90, 103 anni e che continuano a cercare questi, hanno il diritto di ritrovare questi nipoti, e la Chiesa argentina conosce tutta la storia. E in quel Bergoglio Papa che ha fatto? Ha promesso di sollecitare la Chiesa cattolica argentina a fornire le informazioni richieste, ed effettivamente questa promessa pare che l'abbia mantenuta, ma l'ha mantenuta in questo modo: caso per caso, parente per parente, ogni singolo parente può andare, può presentarsi presso la sede episcopale d'Italia, alla Plata come a Buenos Aires, e chiedere informazioni, oppure il magistrato che sta indagando su una singola storia può appunto fare espressa richiesta per avere accesso alle carte. Stiamo parlando di 30.000 desaparecidos, 15.000 più altri circa 15.000 storie. Ora, certamente è un passaggio, un punto di rottura rispetto al passato e rispetto soprattutto all'atteggiamento che Bergoglio ha sempre avuto nei confronti di questa storia. Però, diciamo così, i tempi della Chiesa non a caso li dicono biblici, e se è, la cosa è caso per caso, e stiamo parlando di appunto almeno 45.000 casi, molto probabilmente appunto purtroppo molte delle nonne, sicuramente anche tante delle madri, non avranno mai la possibilità di conoscere la sorte effettiva, oppure dove potrebbero essere seppelliti i resti, almeno i resti dei propri cari. Nella bellissima osservazione di Simona, che è una super inchiesta, è una super inchiesta per tanti motivi, per esempio la storia dei figli rubati in Spagna, che ecco, in Argentina sono, la stima è 500, in Spagna sono stati calcolati 300.000 furti di neonati durante i 40 anni del franchismo e i 20 anni successivi. È una stima fatta dal giudice Baltazar Garzón, quello che incriminò e incarcerò e fece incarcerare Pinochet nel 98. E la storia del furto dei bambini in Spagna, Simona la racconta attraverso le voci, le interviste di alcuni dei più grandi romanzieri viventi spagnoli, perché sono stati i primi a portare alla luce questa storia qui. Cioè, come accade in Italia per certe cose, i giornali non ne parlavano, pur essendo appunto questo crimine gigantesco, anche, soprattutto in termini numerici. Alla fine dell'inchiesta c'è un'intervista a Massimo Carlotto, lo scrittore, che è nipote di Stella Carlotto, e lui racconta a Simona, lo chiede in maniera piuttosto perfida: ma tu ci sei andato a quest'udienza a cui hanno invitato tutta la tua famiglia? Ovviamente Massimo risponde no, e risponde no perché Estela aveva un ruolo, diciamo così, politico istituzionale, le stelle delle Abuelas sono ormai un'organizzazione governativa che ha appunto per politica, per mediazione, dice ok, è bene non mettersi contro Bergoglio, che adesso è decisamente molto potente, anzi cercare di sfruttare il più possibile il fatto che lui non può dire nulla. Questa era più o meno la pensiera di Estela. Dice: ma io un politico non sono, io non ho, io so quello che ha fatto Bergoglio, so quello che non ha detto, sto anche svolgendo le mie ricerche su questo signore, quindi io la mia faccia accanto a quella di questo signore non ce la voglio mettere. Ecco, io il libro si conclude con l'intervista di Massimo, perché è molto in sintonia con quella che poi è stata la rabbia, ecco, l'indignazione di cui parlava Ilaria nella sua bellissima introduzione. Quindi ecco, io per quanto mi riguarda chiuderei qui e vi ringrazio. Grazie a tutti. Io solo ringraziare Fulvio, grazie Fulvio e grazie Federico per averci fatto passare questa bella e interessante serata. Grazie veramente di cuore per essere qui. Il libro sono qui fuori, invito a leggerlo, perché tante cose le abbiamo dette, ma tante altre, proprio quelle che fanno venire la rabbia, stanno ancora qui dentro.